100, ce li ho anche con l'altro. Vado con l'altro e c'ho 100. Eiaia. Bella giornata oggi. Fra poco vediamo che ora è. Metto un po' di lavatrice, magari alle 8, che la corrente quando è che costa meno? Alle 8 o alle 8 e mezza? Dopo le 8 o dopo le 8 e mezza? Questo non ti so rispondere. Chiedi a Gianni a vedere se lo sa. Io, appena dentro glielo chiedo. Io che ricordi erano le 8, dice dopo le 8, insomma dalle 8 in poi c'è una riduzione del costo là. E queste bollette cominciano a pesare, tanto uno cosa fa davvero? Non ci fa dolce, non lava la roba, come fai? Per forza, però la stufetta, quella è una cosa che io non avrei messo. Francamente, scusa, se uno è sotto tre coperte, ti metti la stufetta per cosa? Poi non scalda nulla quella elettrica. C'è tutto luce, c'è proprio luminosità, ma non scalda. Quelle te le devi attaccare alle gambe, quando sei seduto a scrivania, a tavolino, te lo avvicini alle gambe, allora il caldo lo senti, ma cioè, se la metti a 2 metri, 2 metri e mezzo, cazzo scalda. Scusate la parolaccia, ma mi è uscita. Sì, vabbè. No, io ce l'ho a cherosene, ce l'ho. Quella con la ventola. Non fa né odore né nulla ed è di lusso. Oh, aspetta, adesso non è acceso. E io. Poi che altro? Boh, vabbè. Mi. Chi sente Falcone? Nasu. Cebone. Oia. Oia, oia. Ma è cosa? Non sta più entrando? Luca del Monte non sta più entrando. Luca deve essere all'ospedale che l'hanno operato al naso. Oh, cosa aveva de noi di? Roba al naso aveva, non lo so cosa avesse di preciso, ma dice che la dovevano operare, a quanto ho capito. No, non lo sapevo. Forse il setto deviato. Perché se anche qua, se dovessi operarmi ogni cosa qua, mamma mia. Poi lui aveva quel problema della cistifellea lì, i calcoli quelli sono un po' più delicati, perché se fanno danno alla cistifellea fanno danno alla, di conseguenza alla, quella che hai avuto tu, ma come si chiama, quella roba delicata lì, porca miseria, non mi viene. E io già me l'ho fatta, c'avevo i calcoli proprio alla cistifellea, me l'ho fatta a togliere. Ecco, sì, Natalia, esatto, il pancreas. I calcoli della cistifellea possono, se fanno casino già nella, lì, fanno danno anche al pancreas, quindi un po' più delicata è la cosa che non avere calcoli renali, che anche lì bisogna sempre stare attenti, perché se va tutto bene, che non c'è infezione, va bene, però se il calcolo renale prende infezione è un casino, guarda. Deviazione del setto nasale. Sì, deviazione, e anch'io riesco a... Io sono tutto deviato, sono, anche sessualmente. Grazie di contatto. Ancora no, ma ci stiamo lavorando, sto scherzando, vabbè. No, ma tra il setto nasale deviato, la colonna che un po' sai, scoliosi, un po' deviata, tutto deviato sono. Meglio non fare niente, tanto. Chi era l'altro? Ha detto, bubu, avanti, buonasera. Ciao Marco. Certe battute proprio fanno ridere. Ciao Marco, ciao Natalino. Ciao Giulio. Ogni tanto, se non scherziamo, finché c'è tempo, che qua non si sa come andrà a finire tutto quanto. Tra virus e capi di Stato romani di grandezza, oggi ci siamo, domani non si sa, tocchiamo ferro, aspetta, tocchiamo. Vabbè, bisogna vivere la giornata comunque, no? Come sempre, non è che cambia da un giorno all'altro, ci possono essere delle differenze, però tutto sommato poi quando uno vive la giornata ti lavate sempre. Un periodo brutto, così brutto non... Qui c'è tutto un ambiente strano, anche di notte, no? Mentre tu dici, vabbè, non siamo in estate, però anche qua gente che torna a casa di notte, c'era sempre un via vai qua, no? È abbastanza di passaggio. Invece è da un bel po' di tempo che qua sembra che ci sia il coprifuoco, Giulio. Non senti gente passare che chiacchiera, un mortorio. Certe volte anche di giorno senti ben poca roba, ben poca gente che passa e chiacchiera, non so perché, ma è questo da quando c'è stato il Covid, ho notato c'è questa cosa qui. Però la notte si nota di più, si nota molto molto di più. Cioè non vedo un cane qua, dopo una certa ora è proprio il coprifuoco, senza mezzi termini. Vai Giulio. Sì, ma diciamo che la gente sta cambiando abitudini. Io ad esempio ieri mattina ero di accetto al mercato, che poi oggi c'è Conad, come faccio solitamente, vado lì, faccio colazione, un cappuccino, una pasta e così via. Ma devo dire che ieri mattina intorno alle 10:30 era quasi deserto il negozio, c'era come il numero di persone, erano solo le cassiere e il personale del negozio, ma come clienti non ce n'erano, proprio in una maniera scarsa. Magari domani è sabato o anche stasera, che è fine settimana, dunque la gente va a farsi la spesa, però ieri che era giovedì, assolutamente, guarda, c'era pochissima gente, ma veramente poca. Guarda, per quanto mi riguarda, da quando non c'è proprio il vero Shan, io per andare da Conad ce l'ho in via Gramsci. Mi dispiace, lo preferivo come la prima, con alcuni... Ebbene, perché sto pescando? Ah, cosa gli ha preso? Aspetta che metto il Mac normale, dai, ho capito. No, mi si è stabilizzato. Dicevo, da quando non ha più alcuni prodotti o come la prima, io non sono più andato, sono andato solo marginalmente un paio di volte, però non mi piace più. E ti dirò che preferivo anche quando dietro c'era il Brico Center, c'era un piccolo Bricoman che però aveva dei prodotti interessanti. Anche mia zia l'ha detto che lei fa molto bricolage, c'erano prodotti interessanti, poi hanno tolto anche quello, ha cominciato un po' a decadere, poi è andata come è andata, Giulio. Vediamo, adesso faccio riprendere a Gianni, riprendi. Eia. Sì, anche per me è così, Marco, è un musugio da quando non è più città mercato. Quando era città mercato andavo, c'erano scarpe, c'erano tutte, c'era tutto quanto, adesso è solo roba alimentare, non mi interessa più, e poi ce n'è troppa, non riesci più a capire cosa devi prendere. Sì, infatti ieri mi sono chiesto, ma tutta questa merce con senza clienti come fanno? Ad esempio ero nel reparto verdure, vino eccetera, frutta eccetera, e c'era tanta di quella verdura, guarda, questa è una verdura da un giorno all'altro incomincia a decadere, come fanno? Ma la buttano via? Cosa fanno? Non riescono a venderla tutto in un giorno, tutta quella quantità di merce che c'è, non è possibile, guarda. Poi se vedo che non la vendono, la mandano anche nell'altro negozio, non è che non la buttano giù, non ti preoccupare, la puliscono, la fanno sino ai minimi termini. Lo so perché io ci ho lavorato in questi posti, quindi so come funziona. La puliscono giornalmente, tolgono le foglie che sono brutte, puoi dire che la lattuga la puliscono, la fanno, poi se vedono che la roba non si sta vendendo, la mandano nell'altro negozio dove va di più, capito? Sì, premesso che qui ne hanno aperto, dove sono io ne hanno aperto uno a poco, in via Camboni, dove fanno le feste eccetera, e adesso hanno aperto una succursale Conad, ma non è un negozio di grande cosa secondo me, è un negozio normalissimo, niente di particolare, e poi che dire, che lì proprio in quel capannone lì ci sono stati altri negozi e hanno tutti chiuso proprio perché non vendevano abbastanza. Adesso vediamo un po' se la Conad resiste o se va avanti, non lo so, comunque anche per qui in questa zona ce ne sono 5 o 6 supermercati, ti puoi immaginare, sicché per considerare il numero della popolazione e i supermercati quanto possono vendere, ti vende molto l'MD secondo me, quello che fa dalla barba a tutti quanti. Comunque io devo dire una cosa, che la Conad come carne e come frutta e verdura a tutti di prima, è roba veramente scelta. Sì, no. Guarda, quello sì, non ci sono dubbi, questo lo so, soprattutto la carrezzata. A cola, eccetera. Allora, voglio dire, comunque ti super negozi di metterla che... Ma? Super esagerando, perché non è possibile far finire che ci sono più negozi. Ma portate su... È un po' come le pizzerie, oggi in ogni angolo della strada c'erano una, due pizzerie, anche tre in certi posti, a 100 metri l'una dall'altra. Ci sono più pizzerie che persone a mangiare la pizza. Andremo avanti con senso. Avanti Natalia. Lavorano tutte le pizzerie, Giulio, tranquillo che lavorano tutte. Se ne sanno fare le pizze già lavora. Ma sì, quello sì, però mi sembra un numero esagerato. Ma vabbè, ognuno crea impresa per poter lavorare, anche perché lavoro come da dipendente non è troppo, e allora tanta gente si mette in proprio e avanti così alla bella figlio. Avanti Natalizio, sì. Sta uscendo un rauco, ti stanno mettendo la portante, c'è problemi all'apparato. No, è portante. Sì, vabbè, facciamo prendere la portante, arriviamoci. Mi capite comunque? Certo, sì. Quello sì, già passi, non è che... E quindi, vabbè, sai cos'è, cosa mi interessava a me di Auchan? Sì, vabbè, tu dici, aveva più vestiario, che non è che comprassi, però le calze, le mutande, certe cose carine ce le aveva, di utilità, diciamo così, di tutti i giorni. Poi il settore per le auto, tanti tipi di olio motore, cioè tante marche, per ogni marca tanti tipi di olio, pattani, di tutto va via. Adesso saranno 2 metri, proprio 2 metri misurati, un olio per benzina, un olio per diesel, due fesserie in croce, prima era molto più ampio, a me piacevano quelle cose lì, mi piaceva avere parte elettronica, che tu dici, ma c'è Euronix, vabbè, Euronix è una cosa, e l'elettronica di Auchan era un'altra, per quanto negli ultimi tempi abbiamo perso un po' lo smalto, prima erano più corretti a far tutto, li restituivi che ne so, un computer portatile, non funzionava, li ero restituivi all'inizio, te lo sostituivano subito, senza battere ciglio, negli ultimi tempi invece erano più ciechi, erano diventati, capito? Va bene, vediamo se c'è Natalino anche all'ascolto. Natalì, vai. Sì, già ci sono, però me la sto chiudendo perché non ne ho voglia, sono già stanco, là. Non ne agguanto più. Ehi, va bene. E quindi a me piaceva molto, più che altro il reparto macchine, poi che ne so, in estate mettevano cose per il mare, vabbè, non è che stai a comprare tutti i giorni, però c'avevi più scelta, anche maschere da sub, tante cosine, e così anche quelle cose per giardinaggio, non so se è presente, ecco, quei tavolini da giardino, cioè prima era tutto più ampio, adesso è il 90% credo sia alimentari, e poi piccoli dettagli per quelle altre cose. Vai Giulio. Beh, d'altronde è così, purtroppo anche loro hanno i loro problemi. Anche questi grandi negozi lo stesso, con tutte le spese che hanno, sì, che in qualche maniera devono cercare di far fronte nella maniera migliore con gli incassi, eccetera, perché se no ciucucciù, per spese, sembra così, a noi fa comodo. Per un super negozio vicino anche, però anche loro hanno le loro ragioni, ci sono tante di quelle spese, oggi con le tasse che si pagano, figurati se non fanno certi accoglimenti commerciali, eccetera. Avanti Gianni. Vabbè, comunque non capisco perché l'abbiano chiusa Città Mercato, che una volta che io ho sentito il direttore mi ha detto, se l'avessimo saputo che veniva tutta questa gente l'avremmo aperto, ma non da poco, l'avremmo aperto 3 o 4 anni prima pure. Lo so già, ma lo sai così, il commercio è fatto così, perché anche Bricome, cioè noi li chiamiamo sempre Bricome, però non è più Bricome, adesso è Tecnomart, una cosa del genere, anche loro hanno cambiato gestione, per cui, o perlomeno hanno cambiato nome, non so il motivo per cui, però vendono lo stesso e non c'è niente da dire, ma è così, fanno da una società all'altra, sempre una questione di soldi, Gianni. Oh, lì non ci sono più andato, ogni volta che vado ci sono filosofi per comprare due cose, devi fare file mastodontiche. No, no, non ci sono più andato lì. Vado da Bricolo, in quello che c'è via Bugino, quello che c'è via Bugino, che c'ha sopra, anche se è piccolo, il negozio ci ha soffre tutto. Sì, lo conosco quel negozio di via Bugino. Sì, e anche lì qualcosina di interessante già ce l'hanno. Per cui, però, alle volte, vabbè, uno, io non è che ci vado molto spesso da Bricolo, non è che ho necessità di comprare niente. Preferisco, ad esempio, se è questione del Parlamento, preferisco andare da Palmieri, che trovo tutto e sono più professionale, eccetera, per cui va bene così, così. Avanti Marco Cappa. Mi ricordo quando ho aperto, era il lontano, può essere 88 o 89, una cosa del genere, spettacolare, torte di mele, settore pasticceria dentro. E prima cos'ero abituato all'epoca, stando a Upim, come dire. La piazzetta non mi ricordo se è venuta prima o dopo, ve lo ricordate voi? Io no, non lo ricordo, ma forse quasi insieme sono venuti, capito? Hanno aperto quasi insieme, ma la piazzetta poi è andata a rotoli, mentre invece città mercato è andata avanti. In quel negozio lì avevo fatto anche l'impianto di amplificazione, avevo fatto anche l'insegna che c'era scritta Upin, quella bandiera, quella lo stesso, l'avevamo piazzata noi nel negozio. E tante cose, però poi hanno cambiato, da quando hanno cambiato l'Upin del corso, quello in basso, voglio dire, anche il traffico della parte bassa del corso è diminuito in maniera proprio notevolissima. Avanti Gianni. Io mi ricordo quando ero piccolo le tappe erano mercato, poi andavamo da Capita con mamma e poi andavamo lì all'Upin. Queste tappe qua le facevamo quasi ogni volta che uscivamo e poi passando al corso, ma passando in via Rosolo, ci prendevamo la pizza. Sì, beh certo, ma io mi ricordo, eravamo di fianco praticamente, perché c'era tra noi e Capita c'era via Ramai in pratica. Ecco, io ero lì, lavoravo in quel negozio lì, lavoravo alla Fiorentina, e poi l'hanno chiuso il negozio dopo tanti anni, eccetera eccetera. Però c'era traffico tantissimo ed era bello, quel Upin lì era bellissimo perché era molto molto attrezzato e lavorava in una maniera impressionante. Io conoscevo tutto il personale, tutte le commesse che c'erano, sai, allora ero giovanotto, ragazzino praticamente, potrei dire, e mi conoscevano tutti mi chiamavano da una parte all'altra per dire. Ero simpatico, quando avevo bisogno di cambiare i soldi che il principale mi mandava, vai a cambiare questi soldi. Entravo a Upin, lì la prima che mi vedeva, Giulio dimmi cosa vuoi, il cambio, e subito mi cambiavano i soldi per dire no. E tutte queste cose già, io ci avevo lavorato all'interno del Upin, ti puoi immaginare, ripeto, avevo fatto l'impianto di amplificazione, avevo fatto. Poi al posto del Upin ci ha dato Maria la pazza. Ma per dire no, poi ci è trasferito lì, e si è trasferito in via Cesare Battistia, lì è stata diciamo la sacrosanta discesa dell'Upin, e poi si è trasferito in via Italia, che non so se c'è ancora, e così via. Vabbè, comunque facciano loro come credono. Avanti Marco. Aspetta Giulio, ma lo sai che c'è l'eco, sì? Sì, perché non ti piace? Se non ti piace lo tolgo, No, non è quello, perché io sapevo che a te non piaceva l'eco. E ho detto, mi sembra strano che ci abbia l'eco quando non gli piace, pensavo che si fosse inserito magari toccando qualcosa, capito? No, perché stamattina eravamo a Baracchino, siamo stati più di un'ora, eccomi, tolto. E stavamo appunto facendo varie prove, per cui più che. Come ascolta a me? Quattro persone mi sembra con la stessa radio uguale, e dunque stavamo facendo tutte le comparazioni, ecco. E avevo inserito anche l'eco e adesso c'era rimasto. Però in effetti hai ragione, non è che mi sono molto, molto amante io dell'eco, la verità, è come del bip, lo stesso discorso, non è che mi piace più di tanto. Però mi avevano detto a conferma, dice, con una puntina così, dice, è spettacolare, dice che va benissimo, non lo so, già forse a te ti dava fastidio? No, a me non mi dà fastidio, a me piace l'Ecco. Te l'ho detto solo perché sapevo che a te non piaceva l'Ecco, magari gli si è inserito toccando qualcosa senza volerlo e non lo sa, non se ne è reso conto, capito? E a me come ascolti con questo microfono? Bene o male? Avanti Marco! Non sono Marco, Antonello sono, ciao! Ah, io Antonello, anch'io c'ho il leccalecami, appena, se è pure percettibile, non lo so. Se Antonio è ben entrato, compagnia di Giulio, Natalino ha detto che non ce la fa più, e è doppio rum. Gianni si sente qua appena, vedi un po', è talmente al minimo che io non lo sento. No, aspetta. Prova. Eccolo là. E adesso c'è, però è poco, là, già va bene. Lecchiamo tutti, dai. 1, 2, 3. Anzi, oggi, proprio oggi, Gianni lo più rumore senza Ecco, è incredibile. Io già ce l'ho qua l'Ecco, però se lo inserisco innesca perché c'è un microfono amplificato. Con questo apparecchio qua, col microfono amplificato, non si può, con l'Ecco non si può mettere il microfono amplificato. Sì, perché farebbe troppo bulotto, dai. Ebbene, Antonè, come anda? Tutto bene, la verità. Hai visto? Quindi tutto a posto. Tutto a posto. Sai che io sono l'unico che parla con l'acustica, quindi a un certo punto cosa vuoi fare? Ma ciao mi la gente piglia pure per te, lo sai che ti hai visto anche tu l'altro giorno, quindi a un certo punto vabbè, comunque sia sono a posto. Ahia, sì, già l'ho sentito l'altro giorno io. Bene. E vogliamo dire dei calzolai. Un'altra trovavi il calzolaio, non so, non mi ricordo se era l'Upim o la Standa, credo Upim. Quando avevamo uno vicino a casa di calzolaio, beh, chiuso quello, tu adesso vado a trovare un calzolaio. Pensa che mamma quando aveva le scarpe, quelle vere di una volta, quelle in pelle, che potevi cambiare addirittura la suola, cioè non era colla su plastica come quelle cinesi, era, potevi cambiare la suola e il tacchetto anche, no? Che le donne ce l'hanno rialzato il tacco. E si andava al calzolaio, no? Fino a pochi anni fa, io dico, non pochissimi, da facciamo 15 anni fa, 10-15. Adesso vado a trovare un calzolaio, non so nemmeno se esistano più. Giulio, niente le sai. Ne hai uno vicino a casa tua? E uno anche via Bogino. Via Bogino, oh, tuttora. No, quello che c'era qua vicino era tipo a 50 metri, no? Forse anche 100 metri. Insomma, era proprio vicinissimo comunque. Poi anche lui aveva chiuso, è un peccato però. Vabbè che ora tutte le calzature, anche se compri roba di marca, è tutto fatto in Cina, cioè tutto plastica su plastica. Cosa vuoi aggiustare lì? Dietro via Fuglisella ce n'è uno di calzolaio, con la via, se non mi ricordo se sia via degli astronauti, ce n'è uno di calzolaio lì molto bravo. Anche via Torretonda ce n'è uno, prima di uscire per via Marghinuti, o che via è che era lì, no via Marghinuti, dove si ferma il treno, insomma, poche parole, lì, quasi all'angolo, ce n'è uno lì anche. Allora ce ne sono, non sono estinti, diciamo, come professione non è estinta. Crevo peggio. Ho detto magari Sassari Vecchia, forse qualcosa si trova. Vabbè, buono. Io mi ricordo mi facevo cambiare la suola degli anfibi, quelli tipo servizio militare, no? Lì erano addirittura, erano le suole erano incollate, inchiodate, avvitate perché aveva anche delle viti in base alla pressione della casa, e poi cucite intorno con un filo grosso, quello resistentissimo, un bijou venivano. Quello mio padre le costruiva lui. Oh, le faceva proprio col cuoio, e quelle erano indistruttibili quasi indistruttibili, dai. Cambiavi la suola quando si consumava e durava un'eternità, guarda. Mio padre diceva sempre, con l'andare del tempo i calzolai spariranno perché stanno facendo tutte le scarpe di gomma e nessuno più viene a mettere le suole. Per fortuna io faccio cinture, borsette, faccio scarpe ortopediche, quindi in altre cose me la cavo, perché se fosse stato solo per le scarpe sta andando diminuendo. Sì, ma come tutti i vestiti, io già non sono messo a calzolaio. Un po' tutti i mestieri stanno scomparendo. Lo sai che a papà l'hanno chiamato dopo che è andato in pensione Giulio per insegnare ai ragazzi a scuola il mestiere del calzolaio in una scuola professionale, lo volevano a pagamento naturalmente, e lui ha detto che non ne aveva voglia, che ormai era andato in pensione, non aveva più voglia di fare queste cose. Beh, certo così, ma è un po' per tutti i mestieri, i motivi sono molteplici, sono ad esempio incominciando dal fatto delle tasse, uno che vuole imparare un mestiere deve andare da un artigiano, perché se vai in una fabbrica a mestiere non impari, lì in fabbrica impari solamente ad essere un robot e basta, però se vuoi imparare il mestiere devi frequentare un negozio artigianale, però gli artigiani non prendono nessuno, perché? Perché le tasse che devi pagare per l'assicurazione eccetera sono esose, per cui non ce la fa l'artigiano, e allora muoiono i mestieri così, e muoiono, e la gente non riesce a rimpiazzare gli anziani, i vecchi, quelli che poi vanno in pensione e che muoiono anche, per cui è così oggi. Comunque mio padre diceva che caso mai che c'erano lupi non servivano a niente, erano di quelli cipitù che mettevano sole che non servivano, usavano colla e basta, non cucivano le scarpe, le sole non le cucivano, che lavoravano così tanto per farlo, ti durava davanti alla Santo Stefano quel lavoro. Ma certo che sì, guarda, quando un calzolaio faceva un paio di scarpe, facevi fatica a consumarle, questo non ci sono dubbi, perché erano fatti come si deve. Ma io ti dirò, per mia esperienza, questo io avevo comprato un paio di scarpe due anni e mezzo fa, che io di solito quando vado ne compro anche tre paia, ne compro, però poi non è che ho l'abitudine di cambiare spesso, perché mi fisso praticamente con un tipo di scarpe e mi vanno bene quelli e basta, no? E questo paio non l'avevo mai utilizzato, era nuovo di zecca, mai usato. Beh, il giorno che ho deciso di metterli, come mi sono messo, ho camminato per un po' e si sono spaccate di fianco. Sono andato dal calzolaio, proprio quello che c'è in via Boggino, mi ha detto no, questo non si può più riparare, perché non mi ricordo il motivo per cui ha detto, dice non si può, si era praticamente guastata la scarpa, una scarpa, non tutte e due, una scarpa si era aperta senza utilizzarla. O Gianni, avevo camminato, se no, quando avevo fatto 5 km a piedi, non di più, guarda, ma non tutti in un giorno, e nel giro di una settimana praticamente ho dovuto buttare un paio di scarpe che io non avevo mai usato, Gianni. Probabilmente come sono state ferme si è seccata la colla e si sono spaccate. E vabbè, mio padre faceva quelle di campagna, quelle proprio fatte in cuoio, lo vendeva a 40.000 lire, me lo ricordo ancora, diceva sempre che non c'era il tanto di farle, però che a lui piaceva farle, perché gli piaceva vederle ai contadini indossate, cose, gli faceva piacere, dai. E praticamente mi ricordo che faceva lo spago e poi sullo spago metteva la pece che la scaldava, a casa faceva una puzza che non si poteva stare, gli metteva la pece nello spago, perché questo spago, mi aveva spiegato, lo inseriva con la lesina, lo entrava nelle suore e poi tirava, faceva i nudi a mano, e mi ha spiegato che questo spago li metteva come si chiama la pece, per evitare di farlo infradiciare quando andavano nell'acqua, perché i contadini, sai, vanno nell'acqua e cosa, e gli serviva la pece come, diciamo, protettivo, per lo spago, e poi gli metteva anche le viti, come ha detto Marco, che erano viti di ottone, me lo ricordo ancora. Bravo, esatto. Sì, ma prima i lavori erano fatti con un altro criterio, Gianni, oggi no, ma ripeto, tutti i mestieri, ma anche nel mio mestiere, che ormai io non faccio più da anni, per dire, no? C'è stata un'evoluzione, un sistema di lavorazione diverso, tipi di materiali diversi, e chiaramente man mano che andavano avanti i tempi, e uno si aggiornava anche, ma è normale, no? Però ci sono quelle persone che erano esageratamente meno freghisti, e magari c'erano quelli abituati a lavorare in una certa maniera, come senza nessuna presunzione, come ero io, e facevo i lavori, e praticamente in maniera tradizionale, dunque di una tuning. Mi sembra che anche tu qualche lavoro che ti ho fatto ne hai la prova, no? Vai Gianni. E ancora sono tutti in piedi. Sì, sì, no, sto scherzando. Praticamente sì, è così. Mio padre si portava a lavoro anche a casa, infatti mia madre lo sgridava perché ne aveva talmente tanto di lavoro che non riusciva a sbrigarselo in negozio, e se lo continuava a casa incollava le suole e poi l'indomani erano già incollate e non faceva altro che cucirle, di modo che poi poteva consegnare il lavoro prima, capito? Ora sì, è vero che mio padre soldi ne ha fatto, però aveva anche un bel cliente e non li mandava via, e quando andavano non li mandava via. Beh certo, è così che deve essere, poi quando uno si fa un certo nome il cliente è anche disposto ad aspettare qualche giorno, non è che invece ci sono quelli che fanno come si dice a Sassari in Sardegna, fare il letto, fare il letto, per fare il letto anche a consumarsi il lavoro che fai, no, non va bene così, dai, no, non va bene, cioè, bisogna anche discutere col cliente, fargli capire certe cose, siccome la gente non è stupida, quando tu gli fai un certo ragionamento la gente capisce anche, però poi ci sono quelli che magari o perché non hanno molte possibilità o perché effettivamente vogliono risparmiare vanno a comprare la cosa da mondo convenienza, tanto per fare un esempio, no? E poi io ho sentito gente che veniva da me e sai cos'è, io capisco che ho comprato una camera da letto magari 700 euro sicuramente non è un granché, però me lo danno a rate a 18-20 euro al mese, poi quanto mi dura, un anno, due anni, poi la butto via e vado e me ne compro un'altra e non ho perso, intanto le possibilità che ho sono quelle, capito già? Ragiona anche in questo modo la gente. Sì, hanno sempre mobili nuovi, però che non servono a nulla. Io i mobili che ho, diciamo, li ho cambiati solo la prima volta perché avevamo fatto la fesseria quando ci siamo sposati di mettere i mobili bianchi e li abbiamo cambiati per quello. E in sala c'è invece da neri, quindi ti puoi immaginare la polvere, stava sempre spolverando. E li abbiamo cambiati per quello, però una volta cambiati poi non li abbiamo più cambiati perché sono mobili che abbiamo pagato, però che ci sono restati, siccome ci sono piaciuti quando li abbiamo presi mi piacciono tuttora perché sono mobili durature che non vanno mai via di moda. Beh appunto è quello, sì, sì, ma non è questione di polvere, la polvere si sa, cioè uno la polizia se la deve fare, non è perché era bianca che scendeva per portare la polvere, tu mi dai magari forse si vedeva di più, vabbè, questo sì, però uno la casa se la deve pulire, ovvio, no? Sicuramente tu lo sai bene meglio di me e so che sei anche abbastanza preciso in queste cose, ma per dire la qualità del materiale era, se la quello per dire che aveva il mobile bianco e poi dopo pochi giorni era ingiallito perché aveva usato un tipo di vernice che era ingiallente, mentre invece devi usare la vernice che è anti-ingiallente. E sono particolari questi naturalmente che sono importantissimi, però devi trovare sempre l'operaio onesto che ti faccia innanzitutto un piccolo discorsetto per farti capire il lavoro che ti fa, se è di qualità o meno, se poi lo vuoi più scadente sei tu che dovevi decidere. Vai Marco. Sì, ma non erano stati mobili bianchi, erano quelli neri che tu rispolveravi, dopo di minuti ci avevano la polvere sopra, non che non puliva la polvere, la toglieva, poi dopo di minuti ritrovavi la polvere sopra perché non so perché si vedeva tantissimo sul nero, capito? Quindi le abbiamo cambiate anche per quello, però vabbè, li dovevamo cambiare, li abbiamo cambiati anche per quello, abbiamo venduti a Portobello, ci hanno dato 1500 euro per la sala e poi non mi ricordo il resto quanto ce l'avevano pagato, però almeno l'abbiamo venduti, va. Sì, e beh certo che sì, ma io guarda, ti dirò, io ce l'ho i mobili bianchi qui a casa, io ad esempio il mobile di camera letto mio che è un armadio che ha esattamente 12 sportelli e 5 cassetti, per dirti, no, cassetti tipo quelli da Como, grandi, per cui perché 4 stagioni, da terra sino al solaio su in alto, largo 3,10 metri, per dirti, ma per fare un armadio così ci vogliono semi da euro, ci vogliono Gianni, perché è fatto con un materiale tutto particolare. Tu pensa che gli sportivi sono addirittura in mogano, ma in mogano sippo, però il miglior mogano che esiste in assoluto, e poi laccato in bianco. Ma tu mi dai, come mai l'hai laccato e hai usato un materiale di quelle pregio lì per fare? Certo che ho usato quello perché alle volte uno ha un mobile bianco e poi vedi tutte le giunture, no? Tra traversa e montante che si restringono e vedi tutte le spaccature della vernice, no? Se tu utilizzi un legno come si deve, perché è stabile, che non fa difetto, quello non ti succederà mai e il mobile rimane sempre perfetto. Per fare una maglia come lo voglio io ci vogliono 6.000 euro, Gianni. Beh, certo. E vabbè, la roba buona fatta bene la paghi, c'è poco da fare. Quella che paghi poco, poco vale. Mia madre diceva sempre così, poco spendi e poco vale la roba. Eh beh, certo che sì, ma è normale, no? È normale. È un po', guarda, io a casa ho la scala in legno, una a giorno e una a semigiorno e chiocciola per salire su in mansarda, per dire. Ma è fatta con tu, io ti faccio venire a casa e ti faccio vedere la scala, che io lo sto usando già da 20 anni e oltre, da quando abito qua, e non c'è un graffio, non c'è niente, la vernice è sempre bella, brillante, giusto? Gente che viene qua che dice, ma io come mai la scala vostra è sempre così bella, lucida, eccetera, eccetera. Eppure io ci salgo tutti i giorni con le scarpe, anzi ho fatto dei lavori, ho fatto salire anche i mulatori, tu lo sai, i mulatori non è che hanno molta grazia e molto rispetto della cosa degli altri, con le scarpe tutte infangate, salivano, eccetera, eccetera. Quando se ne sono andati abbiamo pulito tutto e ti posso garantire che la scala è perfetta al 100%, guarda già. Non ci sono rimasti graffi, ma vabbè. Perché anche il legno quando è buono, c'è poco da fare. Quello che paghi poco, sì, come dici tu, dipende sempre dalla disposizione che c'hai di spesa, però se tu compri quello di, come si chiama, di mondo convenienza, dice che c'è anche la roba buona, però vabbè, mi sa che tutta roba così da poco prezzo che vale poco, Io ogni tanto vicino ai cassonetti ne vedo di questi mobili tutti quanti smontati, camerette, di tutto e di più, e poi vedo un paio di giorni dopo il cambio di mondo convenienza, adesso le va a portare quella roba, capito? Diciamo che loro dicono, noi abbiamo sempre i mobili nuovi in questa maniera qua, li rinnoviamo sempre e non abbiamo sempre lo stesso mobile. Quello è un modo di ragionare diverso, ma io preferisco il mobile che dura e naturalmente quando lo prendi devi prendere un mobile che ti piace, così non ti stuferà mai. Beh, certo che sì, tanto per darti un'idea, no? Io guarda, adesso ti mando così una foto, ti mando e così più o meno te ne rendi conto, dai. Ti mando una foto su WhatsApp e dopo tra un paio di minuti apri il telefonino e guarda e poi te ne rendi conto. Scusami un attimino che te lo invio. Avanti, con chi ho l'onore di parlare? Un po' in mezzo al QRM, Mario, ti ascolto, buonasera anche a te. Un po' in mezzo al QRM, non so se Giulio ti ascolta meglio che agli punti, avanti Giulio. Non lo so, se io lo sento basso, Mario chi è? Mario di Porto Torres. Cappa. Attento Mario, mi ascolti? Io lo sento Giulio. Non lo senti? No, ma io dico, lo saluto tantissimo, anche se poi Mario, dai, ti saluto anche io, mi dispiace che non ti ascolti bene, sei in mezzo al QRM come radio, come Santiago c'è, però la radio è confusa in mezzo al QRM, dai, magari avremo modo di sentirci meglio, ci sentiamo, buona serata anche a te, avanti giù. Io ti ascolto benissimo Mario. Ok, ciao Mario, anch'io non riesco a sentire molto, sei in mezzo al QRM, ciao Mario, adesso mi dovresti sentire ad ogni modo, dai, ti saluto, ciao, alle prossime, riprendi pure. per il saluto finale, vai. Mario, è coppiato Giulio. Sta parlando. In mezzo al quadremme, non ho capito nemmeno io cosa ha detto. Ha detto buona serata a tutti, a risentirci. Ciao Mario. Ma è strano come si chiamava. È come se fosse spostato di frequenza. Buonasera, che è entrato anche. Anche per me è spostato. Non è chiara la radio. Oltre che sta facendo un altro robo, però non è chiara la radio. Ok, a posto, sì. Mi ha compusso. E via, ok, buonasera. E via, adesso io vi saluto che devo andare a portare giù il cane, dai. Vi saluto tutti cordialmente, buona serata e buona continuazione di questo, dai. Ciao a tutti, grazie per le quattro chiacchiere, dai. Ok, ciao Gianni, allora, grazie a te. Guarda WhatsApp, il discorso che stavamo facendo. Guarda WhatsApp, ragazzi. E adesso guarda. D'accordo, ok, non c'è problema. Vabbè, dai, chiudo anch'io, ciao, ci sentiamo. Ciao Marco, grazie per la chiacchierata. Ciao Antonello, alle prossime, ci sentiamo. Chiudo, dai, ascolta il finalino Marco e poi chiudo, vai. Non so se Gianni poi vuole far replicare ancora, me lo dirà subito, dai. Gianni, vuoi replicare? Su Messenger, su WhatsApp. Hai visto quello che ti ho mandato? Sicuramente lo sta aprendo. Ok, ciao Gianni, ciao Giulio, Antonello lo stesso, mi sono accorto che quello può cambiare spinotto perché si sta mezzo rompendo. Spero di averli appresso, se no vabbè, pazienza, se ne parla lunedì. Ok, di nuovo buona serata a tutti e ci sentiamo le prossime. Ciao, anche chi è entrato che non ho capito chi era al primo passaggio, avanti. Nulla, va bene. Ciao a tutti, ciao. Ciu. Ok. Ora. Prova. 1, 3, 4, 5, 6. Prova. Quindi. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prova. Ora. Ciu. Dimmi tu. 1, 2, 3, 4. Ora. Oh, tu ci sei, Tony, con chi sei? Sono infatti. Non ho copiato. Vedo solo qua. Beh, si è sentito come nella modulazione spesi. Così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso, in pratica. In pratica, voglio sapere. Dato che ci sono i dati. Vediamo un pochettino. Così siamo a posto. Allora, dati in pratica positivi. Non ti seguo, Antonè. Non tu. Vabbè, aspetta 2 secondi. Aspetta 2 minuti. Sì, io già aspetto. Sto frugando, cercando uno spin-off che devo cambiare qua. Però forse li ho finiti. Vabbè, adesso vedo. Ok. Eia. Porca miseria, ero convinto di averne da parte. Quelli che dico io però. Niente. Me la sogno di notte la roba io. Tutta roba inutile e vabbè, niente da fare. Dimmi tutto, caro. Niente. A posto, tranquilla. Tanto le quando premi e voglio dire la prima parola, c'è un effetto come, come se per un istante l'audio venisse come assordato, un microfono come se assordato, come volete lo dica, mi tipo. Ho capito, ma guido. Allora. Fischia, mamma mia. Che palle sto apparato. Vabbè. E dopo gli rimetto il mic originale, dai. Questo ZG ce l'ho avuto nella mondezza. Oh, yeah. Antonio, oggi sei di poche parole, dai. No, assolutamente, non lo sai. Ci mancherebbe. Gli avevi sa che tu. L'altro giorno ha fatto quello che dovevo fare, quindi sento tutto. Ma dipende dai giorni. Sì, sì, quello giorno sì che stavi ricevendo, ma poi stai rivangando, ma io già ho sentito che ricevevi, ci credo, l'ho sentito via radio, eccetera. Ma per quello eri affuttato, per quel giorno lì che, boh, vabbè. Aspetta Antonio che faccio una prova, un attimino, scusa la portante, ma... Ok, dove eravamo rimasti? Ah, che non c'ho spinotto, non posso attaccare qua, devo trovare un altro modo, un alimentatore saturo, cioè non ci stanno altri slot, dove lo posso attaccare, porca miseria, dove me lo posso attaccare? Non posso, la verità, ma comunque sia, vabbè, tranquillo, speriamo che almeno... quando sei chiamata sei a posto. Oh, spiega meglio Antonio, non lo so, accenni, abbozzi, cosa mi puoi dire, cosa è successo? Niente, che... vabbè, niente di so. Speriamo che... se vogliamo un po'. Come fai? Ci batte qualcosa? Che pratica? Ma che la volta a parte, se fosse questo. Lo senti? Ho capito, bene, io stacco, cerco questo, se ce l'ho nell'altro cassetto, sto spinato benedetto, se no non posso andare avanti qua, dai, che devo fare una piccola modifica qua tutto al busillus. Antonio, dai, sentiamo. Ciao, buonanotte. Comunque sono il coso, non so se è la vita, sono fuori, il coso è questo. Hola.